parole, parole, parole che mi fanno vibrare perché siamo bloccati nel tempo, in uno spazio, nella realtà, in una circostanza che ci domina pure nel miraggio della libertà. Voglio fermarmi e tu corri, tu corri, tu corri, tanto forte il desiderio delle tue braccia che mi cingono, mi fan tremare. Amore tenero, raggiungimi, fammi sognare, quando privo di vincoli lo spirito ama in un sogno che si avvererà. Allora prendimi, stringimi, amami e poi tu sarai me ed io sarò te, senza più temere la realtà. Io sarò te e tu sarai me, in un amorevole libertà. Tu sarai me ed io sarò te, senza più temere la realtà. Io sarò te e tu sarai me, in un amorevole libertà. Quando i sogni senza fine delle tue mani si trasformeranno in realtà, intensamente saremo degli angeli, senza età, senza labiri risvegli delle mie parole, dentro i miei pensieri al di là, senza certezze. Tua delicata forza, ogni barriera crollerà. La tua nobiltà d'animo, uno scudo sarà, non esisterà il timore del dopo, finché so che tu con me sarai.